Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, fra pochi giorni, il 22 di aprile, ricorderemo il centenario della nascita di un grandissimo giornalista, Indro Montanelli, che poi sarebbe scomparso, come ricorderete, il 22 luglio del 2001. In questa occasione vi voglio segnalare due libri. Il primo ha la sua firma, di Indro Montanelli, e si intitola I conti con me stesso, diari 1957-1978. Il libro è curato da Sergio Romano, pubblicato da Rizzoli, e sono 288 pagine, 21 euro. Questi scritti sono ricavati da 12 quaderni che Montanelli aveva vergato durante la sua vita, durante quel periodo, appunto 57-78, è un periodo quindi particolarmente significativo nella sua carriera e soprattutto nella storia d'Italia. Sono attualmente custoditi presso la Fondazione Montanelli a Fucecchio. Questi quaderni sono attualmente conservati al Fondo Manoscritti dell'Università di Pavia, dove li aveva depositati lo stesso Montanelli, e offrono gli scritti uno squarcio importante sull'attività, le idee, gli incontri del grande giornalista. Come osserva Sergio Romano, non si tratta di pagine frettolose, scrive infatti Romano, che anzi Montanelli vuole che la frase sia efficace, risponda alle sue intenzioni, raggiunga l'effetto desiderato. Lo stile è spesso quello dell'epigramma, e in effetti nel libro non ci sono soltanto epigrammi, alcuni ci sono e sono fulminanti. Per esempio questo che vi leggo: rottura tra il principe ADO e la signora GF. Lui si è accorto che non avrebbe mai potuto profittare dei mezzi di lei e lei dei quarti di lui. Oppure, adottando come divisa il paltò di cammello, la borghesia crede di essersi trasformata da gregge in carovana. Ma insomma, non ci sono soltanto gli epigrammi, ci sono anche dei ritratti e delle cronache che ci fanno incontrare personaggi famosi e anche lui stesso. Per esempio, in quella giornata drammatica del 2 giugno 1977, quando le Brigate Rosse gli sparano. Milano, 2 giugno. È la festa della Repubblica. Io la celebro ricevendo nelle gambe quattro pallottole di rivoltella calibro 9. Me le sparano alle 10:10, appena uscito dall'albergo Manin, alle spalle. Faccio a tempo, voltandomi, a vedere uno dei due killer che seguita a sparare da una distanza di 4-5 metri. Ma sono talmente sorpreso e frastornato che non riesco a fissarne nella memoria il volto. Aggrappandomi all'inferriata dei giardini pubblici, penso: devo morire in piedi. Questo pensiero stupido, retaggio sicuramente del ventennio, è forse quello che mi salva. Cadendo avrei probabilmente preso l'ultima scarica nell'addome. Solo quando il killer ha finito, cedo al languore che mi invade e scivolo a terra. Potrei comodamente uccidere con la mia pistola l'uomo che ora mi volta le spalle per fuggire, ma ce n'è un altro che lo protegge con l'arma in pugno. Mi limito a gridargli: «Vigliacchi!». Un cane lupo dall'altra parte dell'inferriata sporge la lingua fra le sbarre e si mette a leccarmi la faccia. La donna che lo tiene al guinzaglio è terrea. Le sorrido e dico: «Non si spaventi». Ho subito la sensazione che nessuna parte vitale è lesa. Intorno a me, coperto di sangue, è subito gran confusione. Tra i primi soccorritori riconosco i nostri autisti Mele e Colonna e Paolino Longanesi. Erano alla finestra e hanno visto, ma non avevano capito che la vittima ero io. Trovo la forza di dirgli, in modo che tutti sentano: «Coraggio, ce la farò anche stavolta». Poi tutto diventa spettacolo. Il secondo libro è su Montanelli e gli autori sono Sandro Gerbi e Raffaele Liucci, che completano la biografia del grande giornalista. Questo volume si intitola Montanelli, l'anarchico borghese, la seconda vita 1958-2001. È pubblicato da Einaudi, 284 pagine, 18,50 euro. Dicevo che il secondo volume, il primo si intitolava Lo stregone, e questo volume sottolinea come la seconda parte della vita di Montanelli sia stata in qualche misura sorprendente. Montanelli costruisce in questa fase l'immagine di battitore libero, di un liberale conservatore, scevro però assolutamente da tentazioni di potere e di appartenenza politica, e negli ultimissimi anni diventerà addirittura uno dei più maliziosi e temibili avversari di Silvio Berlusconi, che pure sulla carta impersona molti di quei valori, l'anticomunismo, il mercato, per i quali Montanelli si era battuto tutta la vita. E allora cerchiamo di capire questi paradossi con l'autore. Buongiorno a Sandro Gerbi. Buongiorno. Il precedente libro che lei e Raffaele Liucci avevate dedicato a Montanelli, da questo libro emergeva un'immagine di un Montanelli radicalmente e convintamente fascista. Qui invece mi pare che l'immagine sia completamente diversa, lo stesso sottotitolo, l'anarchico borghese, prende le distanze da quella precedente esperienza. Sì, io non direi che, non sarei così severo come lei ha detto, radicalmente fascista è forse eccessivo. Il libro arrivava comunque fino al 57, Morte di Longanesi, il precedente libro, e semplicemente diceva che non era esatto sostenere che dal 37 Montanelli fosse diventato antifascista, almeno lo era forse nel proprio interno, ma ha continuato a scrivere secondo quello che era imposto dalla propaganda. In questo volume noi notiamo come una sorta di svolta, di cesura che si avvera con l'Ungheria, quando Montanelli per primo fra tutti i cronisti italiani interpreta quell'evento non come un evento di controrivoluzione borghese, ma come una sorta di sollevazione da parte della sinistra stessa contro il comunismo per realizzare un regime più umano, dal volto più umano alla Dubček. E da lì in avanti constatiamo che anche l'esperienza del giornale, che per molti anni, in quegli anni duri del anni di piombo, eccetera, fu considerata un esperimento di estrema destra, poi riletto, rivisitato, ristudiato, non ha questo tipo di caratteristica, emerge un Montanelli conservatore, ma era pur sempre uno che votava la Malfa, quindi un uomo moderato ma riformista, insomma. Sì, in questa definizione, diciamo, del percorso politico di Montanelli, secondo lei quando e come si scoprì di essere abbastanza isolato rispetto anche all'opinione pubblica che poi lo idolatrava? Insomma, Montanelli aveva un suo pubblico che l'aveva seguito nel Nuovo Giornale, però a conti fatti il peso specifico, diciamo, di questo appoggio non si rivelò, mi pare, determinante nel cambiamento della società, della politica italiana. Quando lui si sia reso conto, io credo verso i primi anni 90, sia attraverso le lettere dei lettori, sia poi pian piano col deterioramento del rapporto con Berlusconi. E infine, come fatto rivelatore, quando, nonostante le sue previsioni, Berlusconi vinse le elezioni del 94, e lui fondò poi La Voce, si illuse di poter trascinare con sé tutto il suo pubblico, il parterre del giornale, nella Voce che da lui fondata, e La Voce fallì sostanzialmente per mancanza di lettori, dopo un successo iniziale di curiosità, direi. Perché il pubblico aveva seguito Berlusconi. Il pubblico si trova sostanzialmente più a destra di Montanelli, che era un liberale, sia pur conservatore, mentre Berlusconi tutto sommato era anche aperto a soluzioni più populistiche che a lui non andava bene. Ma secondo lei Montanelli aveva previsto questo? Perché in quegli anni in fondo Berlusconi si presenta con la faccia di chi vuole fare la rivoluzione liberale di massa, predica il mercato, l'anticomunismo, insomma tutte cose nelle quali credeva molto anche Montanelli. Sì, lui credeva, però non credeva che un imprenditore dovesse incarnare queste spinte che venivano dalla società e che il giornale e Montanelli avevano alimentato. Di fatto poi si è trattato quasi di una sorta di, per Montanelli, di atto da apprendista stregone, perché dopo aver allevato una destra ergendosi a portavoce del senso comune dell'italiano medio, ha trovato poi come persona che ha dato voce a questo e rappresentanza politica a questo magma, un imprenditore che è andato in una direzione che non era quella da lui auspicata. E quindi la carriera di Montanelli poi è finita con l'essere sempre più quella di un anarchico, cioè di uno di chi sta assolutamente da solo. Anarchico e anti-berlusconiano, però sempre frondista organico al sistema, non è mai stato un vero anarchico in senso storico, anarchico alla Prezzolini o alla Longanesi, come lui stesso diceva, con una sorta di odio per il potere in genere, e questo è sempre stato un po' la sua caratteristica. Bene, grazie a Sandro Gerbi. Ringrazio io. Un'altra testimonianza diretta è un diario di un personaggio forse meno famoso di Montanelli, ma altrettanto significativo per l'ambiente che si trovò a frequentare, Enrico Caviglia. Era un militare, visse fra il 1862 e il 1945 e fu come militare uno dei protagonisti della vittoria di Vittorio Veneto e poi fu ministro della guerra, senatore, mancato presidente del Consiglio alla caduta di Mussolini, molto vicino a Casa Reale. Di lui esce I dittatori, le guerre e il piccolo re, diario 1925-1945, curato da Pierpaolo Cervone, Mursia, 622 pagine, 22 euro. Queste sono pagine preziose e ormai introvabili da tempo, con testimonianze importanti sulla condizione militare e politica del nostro paese per quasi 50 anni. Nonostante la mancata nomina a presidente del Consiglio, gli fu favorito il maresciallo Badoglio, Caviglia fu uno dei pochi dignitari che rimasero a Roma in quella tragica data dell'8 settembre, quando tutti scapparono. E proprio Caviglia, fra i pochi che rimane a Roma, cerca di garantire un'articolazione dello Stato. Sentiamo per esempio come descrive lui stesso quelle ore. Caviglia va a letto la sera dell'8 settembre, convinto, scrive, che il re e il comando supremo rimarranno al loro posto. E invece avrà una brutta sorpresa. La piazza del Quirinale ed il palazzo, senza sentinelle, parevano deserti, come abbandonati. Pareva che tutto fosse stato disposto per squinternare in Roma le relazioni di comando. Nessuno teneva in mano le file della situazione e bisognava andare a cercarle una dopo l'altra, un po' all'avventura. Ci si diresse in auto verso Palazzo Baracchini, sede del capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Durante il tragitto, Sogno e Campanari precisarono che le loro maestà avevano passato la notte al Ministero della Guerra e che il principe di Piemonte vi era arrivato verso la mezzanotte. Al mattino, per tempo, tutti erano partiti in auto per la via di Ortona, che era libera. A Ortona dovevano trovare una nave su cui imbarcarsi. Badoglio e il comando supremo avevano seguito i sovrani. Questa notizia mi rattristò e dissi: «Se fossi stato presente, non avrei lasciato partire il re. Milioni di uomini hanno affrontato la morte gridando Savoia. Ora tocca al re e a noi gridare Savoia. Ma non mi sorprendo di nulla. Badoglio ha indotto il re a tagliare la corda. Così la responsabilità della propria fuga è diminuita, se non annullata, da quella del re». Un libro tira l'altro. Gli ordini di battaglia, maestà. Bene, vediamo. Ce n'è di più qui che all'assedio di Troia. È evidente dallo schieramento dell'artiglieria che il grosso delle sue forze è sulla destra. Vuol dire che è lì che teme il peggio. Ed è lì che noi andremo a stuzzicarlo. Un'azione diversiva sulla destra. E se gli sguarnirà il centro per rafforzare il fianco, allora conoscerò il calibro di questo aristocratico inglese. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Per la verità vi ha accolto niente meno che Napoleone Bonaparte, perché continuiamo a occuparci di questioni storico-militari proprio con lui, col generale più famoso di tutti. Sono usciti tre libri proprio incentrati sull'epopea napoleonica. Il primo è il libro di una scrittrice francese, Anka Mühlstein, si intitola Napoleone a Mosca, è pubblicato da Bruno Mondadori, 268 pagine, tradotto da Nanni Cagnone, costa 26 euro. Il 22 giugno del 1812 Napoleone lancia la sua offensiva contro la Russia. Sulla carta dispone di 600.000 uomini, certamente quello che ha è il più grosso esercito che si sia mai visto. In Russia scoprirà ben presto la tattica dell'avversario di fare terra bruciata e soprattutto incontra una resistenza inattesa. Un testimone anzi userà queste parole per manifestare la sorpresa e anche la preoccupazione, la paura autentica che questa resistenza susciterà immediatamente nelle truppe francesi. I russi mettono tra noi e loro la fame, il fuoco, il deserto. Non si tratta più di una guerra di re, ma di una guerra di classe, di partiti, di religione, di una guerra nazionale, di tutte le guerre in una. Finché l'imperatore ha avuto a che fare con dei re, le loro disfatte per lui non sono state che un gioco. Ma ormai i re sono vinti e ora tocca ai popoli. Ed ecco che trova un'altra Spagna, ma lontana, immensa, arida, all'altro capo d'Europa, e ne è sbalordito. Il 15 settembre Napoleone entra al Cremlino, ma ben presto cominciano gli incendi che distruggeranno quasi completamente la capitale, e di là poi si va verso il disastro descritto nel libro della storica francese quasi come una cronaca giornalistica. Sappiamo come andò a finire: la campagna di Russia sarà un disastro, Napoleone dovrà abdicare e si dovrà ritirare nell'isola d'Elba, da dove poi riuscirà a fuggire per un effimero ritorno, e sono i 100 giorni. E proprio questo è il titolo di un romanzo, questa volta di uno scrittore inglese vissuto tra il 1914 e il 2000, Patrick O'Brien, famoso per i suoi romanzi di ambiente marinaro che ruotano intorno ai personaggi di Jack Aubrey e Stephen Maturin. Il libro si intitola dunque 100 giorni, 298 pagine, 16,60 euro, ed è tradotto da Paola Merla per Longanesi. Ritroviamo appunto in questo libro Jack Aubrey, comandante della Surprise, che sarà impegnato in una missione misteriosa che ha come obiettivo proprio quello di rafforzare la posizione inglese che teme l'accerchiamento da parte di Napoleone, che sta conducendo delle oscure mene con gli alleati musulmani che metterebbero veramente a repentaglio la situazione britannica. L'esito infausto dei 100 giorni è descritto in Waterloo di Andrew Roberts, che è uno storico inglese ed esperto particolarmente di gesta napoleoniche. Il libro è pubblicato da Corbaccio, 170 pagine, 16,60 euro, ed è tradotto da Marco Sartori. Questo è un nuovo appuntamento nella collana di Corbaccio, I giorni che hanno cambiato il mondo. La data di Waterloo è il 18 giugno 1815, quando si infrangono appunto le ultime speranze dell'imperatore francese. La battaglia, come ricorderete, fu incerta fino alla fine e ispirò non soltanto tantissimi storici esperti di cose militari per l'analisi, gli errori e le tattiche vincenti, ma anche molti scrittori, tutti intenti a descrivere una giornata che certamente ha cambiato il corso della storia. Waterloo, scrive infatti Roberts, fu veramente una cesura anche dal punto di vista politico, militare, e lo spiega in particolare con queste righe. Quella che Lord Byron chiamò con spirito critico la suprema carneficina di Waterloo, e Alfred Tennyson, con maggiore rispetto, nel suo panegirico dedicato a Wellington, quel terremoto mondiale, Waterloo, portò il XVIII secolo al capolinea, o meglio a un punto esclamativo finale. Anche se ebbe luogo dopo che il secolo successivo era iniziato da ormai un settimo della sua durata, Waterloo fu tuttavia un fenomeno essenzialmente del XVIII secolo. Gli storici talvolta scrivono del lungo Settecento, una fase storica che iniziò con la rivoluzione inglese del 1688 e terminò nel 1815, ed è corretto considerare Waterloo la conclusione di un'era geopolitica e militare nello stesso tempo. Fu la generazione successiva a Waterloo a vedere la nascita del moderno, per riprendere il titolo della grande opera dello storico Paul Johnson, e in un certo senso la battaglia fece parte della levatrice della nascita di questa nuova esperienza nella storia mondiale, perché, finite le ambizioni napoleoniche di assoggettare l'Europa, campagna dopo campagna, gli uomini poterono finalmente guardare avanti a un periodo di pace e progresso. Il confettino. C'è un Napoleone anche per i ragazzi. Questo è un Napoleone vincitore in un libro piuttosto insolito per il carattere col quale si presenta. Il libro è Il mistero del tesoro di Austerlitz di Oldrich Ruzicka e Jean Climes, è pubblicato dalla Nuova Frontiera, tradotto da Marta Corsi, costa 28 euro. Questo non è un tanto un libro sulla grande vittoria di Napoleone, quanto sulla ricerca di un tesoro alla quale si dedicherà 20 anni dopo la battaglia un veterano russo. La storia è avvincente, ma è intrigante in particolare il contenuto, il modo in cui la storia è presentata, e questa sorprenderà certamente il lettore. Ci sono tanti documenti, riproduzioni, pop-up, buste che si devono aprire, consultare, documenti che si devono interpretare e che accompagnano il testo e rendono la lettura una sorpresa e una scoperta. E veniamo adesso all'oggi, con uno dei problemi più attuali sui quali l'opinione pubblica è certamente più sensibile: il tema dell'ambiente, in particolare del mutamento climatico. È un tema veramente caldo che interessa tutti, e vi propongo quindi innanzitutto un documento molto significativo che è stato pubblicato nel 2006 e che ha costituito una sorta di pietra miliare in questo dibattito. L'autore è un economista inglese, Nicola Stern, che poi è stato nominato Lord, al quale era stato chiesto dal governo di Tony Blair un rapporto sul cambiamento appunto climatico, Stern pubblica questo rapporto, il quale ha un enorme impatto in tutto il mondo. Egli accoglie la tesi che il riscaldamento non solo ci sia, ma sia anche provocato dall'azione dell'uomo, e propone questo rapporto di intervenire, ammettendo che i costi sono anche molto alti, ma sicuramente molto inferiori a quelli che sarebbero se il mondo decidesse di non fare nulla. Il mondo in questo caso rischierebbe di perdere almeno il 5% del consumo pro capite. Si tratta, insomma, del famoso rapporto Stern, di cui viene pubblicato adesso il testo italiano. Lo presenta Francesco Brioschi Editori col titolo Clima e vera emergenza, il rapporto Stern cambiare possibile, 184 pagine, 16 euro, introdotto da Carlo Carraro. Un documento quindi fondamentale per capire come si è sviluppato il dibattito sul riscaldamento globale negli ultimi anni. Sempre di Nicola Stern esce da Feltrinelli Un piano per salvare il pianeta, 270 pagine, 16 euro, tradotto da Piero Anelli. Questo libro riprende i temi del rapporto e in particolare di un articolo che Stern aveva pubblicato quasi un anno fa su una rivista scientifica. Presenta questi temi in forma discorsiva, divulgativa, senza una naturalmente nulla togliere alla drammaticità del problema, ma anzi insistendo perché i governi, sulla scorta anche di una pressione dell'opinione pubblica, assumano delle scelte importanti e risolutive per bloccare questo fenomeno. Ma il riscaldamento globale, come molti sapranno, è anche contestato, almeno molti contestano che il riscaldamento sia provocato dall'uomo. È uno dei capofila di questa contestazione agli ambientali che appunto mettono in guardia sui rischi del riscaldamento globale, e addirittura un presidente della Repubblica, il presidente della Repubblica Ceca, Václav Klaus, che è anche un economista come Stern, uno dei paladini del libero mercato, che ha pubblicato con IBL Libri, Istituto Bruno Leoni Libri, Pianeta Blu, non verde. Cosa è in pericolo, il clima o la libertà? Sono 150 pagine, 19 euro, ed è tradotto da Diana Mengo. Klaus quindi dà voce a quella corrente scientifica che ridimensiona molto il problema del riscaldamento globale, quantomeno contesta la tesi della responsabilità umana, e affronta in questo libro il tema della tutela ambientale da una prospettiva liberale. Per lui l'allarme climatico in realtà serve a dei gruppi fanatici, come li considera, a imporre delle politiche di carattere dirigistico e autoritarie alle quali occorre reagire favorendo una raccolta di dati che risulti sempre più convincente e soprattutto un dibattito che sia sempre più aperto anche al contraddittorio. Quindi, insomma, chi vuole approfondirsi le idee su questo tema, del quale parleremo a lungo, può sentire le due campane con questi tre libri che vi ho proposto. E con questo ringrazio Daniele Casagrande, Vittorio Mussini in redazione, Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Do la linea a respiro, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.